in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che si concentra sulle modifiche al decreto rilancio, che è quel decreto legge, sapete, presentato pochi giorni fa, che però presenta alcuni presentati come errori o comunque delle cose che andavano corrette in fretta, per esempio i bonus per le zone rosse, ma ci sono anche gli eco bonus che adesso andranno a tutte le seconde case. Corsa agli emendamenti, titola il Sole 24 Ore, pronte le correzioni della maggioranza, fondi garantiti ai comuni delle zone rosse, quindi tutti, CIG più lunga, cassa integrazione, e effetti più leggeri, ma la copertura degli interventi è limitata a 800 milioni. Vi segnalo dalla prima pagina, e poi trovate tutto a pagina 9, un approfondimento di Roberto Darin, che di Brasile, ma in generale di Sud America, scrive sempre, è un esperto, è stato anche tantissime volte, e in questa domenica si concentra sul Brasile. Da una parte, naturalmente, perché anche in Brasile è emergenza da Covid-19, ma perché ci sono gli effetti economici, e quindi, ci racconta poi Roberto Darin, il Brasile riorganizza le filiere produttive. La foto scelta è di una persona che passa con la mascherina davanti a un muro tappezzato di questi manifesti Fora Bolsonaro, perché in questo momento, contestato fin dall'inizio, però forte di una vittoria elettorale altrettanto forte, Bolsonaro adesso ha nuovi guai giudiziari, e poi vedremo, anche altri giornali ne danno conto. Vi segnalo poi un focus sulle banche, perché da una parte c'è il tema, un altro tema pre-Covid, che però adesso in fase di fine del lockdown si naturalmente cominciano a rispuntare tutti i nodi, o comunque tutte le cose che sono rimaste in sospeso prima dello scoppio della pandemia, e tra questi c'è la fusione Intesa tra Banca Intesa e UBI. Sapete che non tutti i soci di UBI Banca sono d'accordo, e adesso racconta al Sole 24 Ore, poi trovate tutto a pagina 10, Unicredit in campo per l'azione antitrust. L'istituto guidato da Mustier, che è l'amministratore delegato di Unicredit, parteciperà all'istruttoria dell'Authority per capire appunto se questa fusione sa da fare. Ma vi segnalo anche, e poi trovate sempre tutto a pagina 10, l'analisi di Luca Davi, molto interessante, banche dell'Unione Europea, cura anti-Covid da 40 miliardi di tagli, perché se da una parte si parla di questi maxi prestiti, per esempio quello molto controverso a FCA da 6,3 miliardi di Banca Intesa garantito al 75% dalla SACE, ci sono anche tutti gli altri temi che riguardano le sofferenze delle banche ai tempi del Covid, tutte le persone che non possono più pagare i mutui o altri tipi di debiti, e questo naturalmente pesa sui bilanci delle banche, e a questo tema è stato dedicato un rapporto di Kearney, società di consulenza, che anche quest'anno ha pubblicato il suo Retail Banking Standard, in cui si analizza i bilanci di 92 banche commerciali sparse in 22 paesi europei, ipotizzando che le banche europee vogliano mantenere un rapporto tra costi e ricavi del 62%, che era quello del 2019, nei prossimi anni dovranno ridurre i costi di 35-45 miliardi di euro. Corriere della Sera si concentra sulle notizie documentate da fotografie che andrebbero tutte, e anche da filmati a volte, che andrebbero tutti verificati, perché purtroppo a causa della prospettiva o di altri problemi non sempre fotografano la reale situazione. Piazze piene, stop dei sindaci, multe e divieti anti-movida, coprifuoco a Brescia, il Viminale, cioè il Ministero degli Interni, state più attenti che mai. E le foto sono due. Una scattata ieri alla cosiddetta Biblioteca degli Alberi, che è un grande spazio verde qui a Milano. Giovani in relax nei cerchi rossi, perché sono stati fatti dei cerchi dove, appunto, all'interno dei quali le persone possono stare vicine, a meno di un metro sicuramente. E poi c'è una foto di Mondello, la spiaggia più frequentata dai napoletani, ieri affollata di bagnanti stesi al sole e in acqua. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche un'anticipazione del prossimo libro di Papa Francesco, il titolo scelto per questa anticipazione che poi trovate a pagina 19, Fissate gli altri senza pensare che siano un pericolo. È un libro che naturalmente risale, è stato preparato prima del Covid, però questa frase sicuramente estrapolata ha un suo senso, perché sarà capitato probabilmente a tutti di incrociare appunto persone che sembrano guardarci con sospetto, che magari noi guardiamo con sospetto, o perché magari non hanno la mascherina, o semplicemente perché in questo clima da paura per la propria salute si sviluppa anche una paura per l'altro in generale, pericolo che dal quale naturalmente Papa Francesco mette in guardia. La Repubblica a scuola con la mascherina, quindi tutta una prima pagina con vari articoli che poi trovate alle pagine 10 e 11 sulle ipotesi per il ritorno a scuola. Le lezioni da settembre, obbligatoria sarebbe la mascherina sopra i 6 anni, però si potrà togliere per le interrogazioni. Un altro tema è quello della distanza tra i banchi, dovranno essere molto distanziati, e questo naturalmente apre il tema degli spazi esistenti nelle scuole, da cui l'ipotesi che si era fatta nelle scorse settimane, per esempio, di avere dei turni per poter permettere a tutti di andare a scuola con banchi distanziati. Vedremo poi come prenderà forma queste misure per poter veramente tornare a scuola in sicurezza a partire da settembre. I due editoriali della domenica, sapete che Maurizio Molinari, no, forse non lo sapete, ve lo dico perché è una cosa che anche è stato, e forse a chi non è giornalista non sembra un grande problema, però ve lo segnalo perché spicca naturalmente dalla prima pagina della Repubblica, che tradizionalmente in prima pagina la domenica mette l'editoriale del fondatore nonché ex direttore di Repubblica Eugenio Scalfari, che questa settimana si intitola In viaggio nella meraviglia dell'Ulisse, e normalmente aveva un posto d'onore e c'era solo quello nella colonna degli editoriali, ma da quando Maurizio Molinari è direttore di Repubblica, subito sotto l'editoriale del fondatore c'è quello del direttore. Effetto Covid sulla sorte dell'Europa è il titolo di questa settimana, con la Repubblica in edicola come ogni domenica l'Espresso. La fotografia è un fotomontaggio di Matteo Salvini che indossa una mascherina sulla quale in realtà c'è stampato una banconota da 100 euro. Si torna sulla questione dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire per rimborsi non dovuti. Sapete che ancora quando la Lega era al governo con il Movimento 5 Stelle, quindi precedente governo, stesso premier però Conte, fu negoziata la restituzione di questo debito della Lega con condizioni estremamente favorevoli, e quindi ciclicamente la questione ritorna. E adesso fase 49, titola l'Espresso, una rete di società amiche, la propaganda personale, Radio Padania, così la Lega di Salvini usa i finanziamenti destinati ad attività istituzionali e continua a nutrire la bestia, sapete questo è il soprannome dato alla macchina di comunicazione di Matteo Salvini, soprattutto per quanto riguarda la parte che usa i social network. Quindi continua a nutrire la bestia anziché restituire i soldi truffati agli italiani. La Stampa invece titola su un tema sul quale veramente forse dovremmo tutti i giorni fare una riflessione, e si potrebbe tutti i giorni fare una riflessione, una proposta, che è quella dell'evasione fiscale. Perché il titolo oggi della Stampa? Perché c'è un'intervista che poi trovate alla pagina 2 e 3 a Ernesto Maria Ruffini, che è direttore dell'Agenzia delle Entrate, e il virgolettato scelto per l'intervista è evasione a 100 miliardi, pensate, quindi due volte praticamente il decreto legge rilancio, la politica abbia coraggio, subito la riforma fiscale. E qui dentro alle due parole riforma fiscale ci sta qualsiasi cosa, perché sapete che c'è chi sostiene che l'evasione fiscale è dovuta anche all'estrema farraginosità e inequità del nostro sistema fiscale, chi invece fa altre interpretazioni. In ogni caso questo resta un tema. Quindi il capo dell'Agenzia delle Entrate aggiunge anche che ci sono, pensate, 950 miliardi di crediti fiscali inesigibili. E poi in prima pagina anche la questione dolorosa, credo, per chiunque abbia a cuore l'equilibrio e la trasparenza tra poteri dello Stato, c'è cioè quello giudiziario, e ieri ci sono state le dimissioni dell'ANM per quello che viene definito l'affare Palamara. L'editoriale del direttore della Stampa Massimo Giannini, il movimento Hamilton dell'Europa, dove richiama l'intervento di quasi due mesi fa su Financial Times di Mario Draghi, direi il solito elogio che si fa a Mario Draghi. E sapete che ancora oggi si continua a invocare da alcune parti con minore intensità rispetto a qualche settimana fa, ma rispunta di quando in quando questa ipotesi di un governo tecnico guidato appunto da Mario Draghi. Il Messaggero, gli scienziati due punti, fermate la ressa. Il tema è quello appunto della tanti assembramenti che si sono visti in tante città e ieri sulle spiagge. La foto scelta dal Messaggero è stata scattata a Ostia ieri mattina, e quindi il tema del appunto gli assembramenti, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, che in Italia è fissata a un metro, ma ricordiamo per esempio negli Stati Uniti è 6 piedi, quindi quasi 2 metri. Il fatto che tante persone continuano a non indossare la mascherina quando sono appunto a meno di un metro di distanza, e qui c'è questo appello per gli assembramenti che si sono visti nelle spiagge in città, così si ritorna nell'incubo. E abbiamo visto anche alcune decisioni di alcuni sindaci, come quello di Brescia, che ha messo una sorta di coprifuoco. Il Giorno ha una foto di un bambino che salta in mano una mascherina. Il Mare, punto esclamativo, assalto alle spiagge, riaperte nel primo weekend di libertà, nuove regole per campeggi, sagre e rifugi di montagna. L'editoriale si intitola "Adesso inizia la fase del buonsenso". In realtà di buonsenso pare in questa prima settimana che Il Giorno definisce di libertà, di buonsenso non se n'è visto tantissimo. E poi vi segnalo, non contento delle interviste concesse nei giorni scorsi, un'intervista al governatore della Lombardia Fontana, che a pagina 3 del Giorno rilancia ospedali in fiera da potenziare. Sapete che nonostante i dati della Lombardia continuino a essere preoccupanti, e non in assoluto ma anche in percentuale, sugli abitanti, quindi non è questione solo di dire che la Lombardia ha più casi o più contagi o più morti perché ha più abitanti, nonostante la questione delle residenze per anziani, sulle quali sapete sono state aperte almeno 2 inchieste. Fontana continua a dire di non aver fatto errori, stessa tesi dell'assessore al welfare, al quale spettano anche le competenze per la sanità, Gallera, e oggi appunto quest'altra intervista al Giorno. Ora noi invece ci lasciamo un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. No, Carmelo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori, attentissimi, sono arrivati tanti messaggi WhatsApp al 349-238-6666 o SMS, facendomi notare che Mondello non è a Napoli ma a Palermo. Certo, è forse la spiaggia più famosa, in realtà non si trova proprio, è appena fuori Palermo, e certo non è a Napoli, lapsus, quindi perdono. Invece, ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori. Poi ce n'è uno in particolare che mi dice: spero che lei spieghi la questione Palamara. Io non spiegherò proprio niente, chi vuole capirne qualcosa ed è molto difficile può leggere i giornali, io vi sto solo leggendo i titoli. E sulla questione Palamara, che è l'ex magistrato che si è già dimesso, ma sono state rese note queste chat, non sto spiegando niente, sto semplicemente raccontando la cronaca, chat che vengono definite imbarazzanti, in cui da una parte con altri colleghi dell'ANM, quindi non stiamo parlando dei magistrati in generale ma di quei magistrati, da una parte dicevano bisogna colpire Salvini e dall'altra davano sostanzialmente ragione all'allora ministro degli interni per aver bloccato le navi dei migranti. Si sono dimessi, quindi questa in Italia è il titolo, sto leggendo il titolo, non sto spiegando niente. Bomba sulla ANM, si dimettono i vertici, questo è il titolo del giornale, anzi il titolo vero e proprio è I silenzi di Mattarella, subito sotto c'è scritto questo. Quindi in un paese dove è molto difficile che qualcuno si dimetta, anche quando vengono fuori per esempio queste prove come queste intercettazioni, quindi nero su bianco, direi che comunque una prima conseguenza c'è già stata, cioè le dimissioni. Intanto però, secondo il giornale, dovrebbe dire una parola chiara anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vi segnalo dalla prima pagina del giornale un'interessantissima analisi di Renato Brunetta, parlamentare di Forza Italia ma economista, sulla questione dei BTP. Sapete che questa settimana è stato messo sul mercato un BTP che è andato sia alla clientela cosiddetta retail, che vuol dire negozi, cioè quelli che vanno in banca e possono comprare questi BTP, e poi alla clientela istituzionale. È stato definito un successo perché le richieste hanno superato l'offerta, ma in realtà c'è un interesse che in questo momento è molto alto, perché pensate che sia la banca centrale inglese sia la Fed stanno pensando di dare degli interessi negativi, cioè daranno dei prestiti, questo è il tasso delle banche centrali, poi naturalmente le banche devono recepirlo, daranno dei prestiti che richiedono una restituzione che è inferiore al prestito avuto. Noi invece su questi BTP diamo un interesse superiore al 2%, capite che così si spiega anche il successo, ed è questo che spiega con autorevolezza e parole molto più chiare delle mie Renato Brunetta in prima pagina sul giornale, e poi con un articolo che continua a pagina 15, che autogol gli interessi sui bond patriottici. E vi leggo parte di questo articolo, pagina 5. Perché parla naturalmente anche del MES però sulla questione dei BTP vi leggo questo passaggio. Gli organi di informazione nazionali e molti esponenti politici, ad esempio, questo lo aggiungo io, ma per completezza di informazione, non per spiegazione, tra questi esponenti politici c'è il leader di Forza Italia Giorgia Meloni, quindi scrive Brunetta: gli organi di informazione nazionale e molti esponenti politici l'hanno definito un successo storico senza precedenti, dal momento che l'asta ha raccolto 22,3 miliardi, molti più di quello rispetto a quello che il governo si attendeva. Per esempio, appunto, un altro virgolettato: è la prova che l'Italia non ha bisogno dei soldi dell'Europa, del MES, della BEI, del SURE, del Recovery Fund, ma che può farcela benissimo da sola, è la narrativa che abbiamo sentito raccontare più volte. In effetti, l'operazione di promozione e propaganda che ha preceduto questo evento è stata molto intensa ed efficace. Tutto bene dunque, dice Brunetta. La vera domanda è la seguente: è stato un successo per chi? La risposta è semplice: per nessuno. E vi invito a leggerlo, perché è una voce, appunto, di un economista che è anche esponente di un partito di centrodestra, e secondo me dice delle cose molto razionali sulle quali dovremmo riflettere, cercando di andare oltre gli slogan. Libero, italiani mai così ricchi. Perché questo titolo? Perché, scrive Giuliano Zulin, siamo più ricchi, non sembra, ma abbiamo più quattrini sul conto corrente. Parecchia gente non ha speso in questi 3 mesi, dagli statali ai pensionati, per cui involontariamente ha aumentato il proprio gruzzolo. L'editoriale di Vittorio Feltri: la gente è oculata mentre lo Stato sa solo sperperare. E poi vi segnalo un articolo di Filippo Facci, Giustizia nel caos, l'unico a tacere è il ministro Grillino. Il partito dei PM detta, i cronisti vassalli scrivono cosa insegnano le intercettazioni. La verità: magistratura nel caos, è saltata per aria la ANM. Dopo le chat pubblicate dalla Verità, drammatica riunione del comitato direttivo del sindacato delle toghe. Area e Unicost, che sono le altre due correnti, escono dalla giunta, ma nessuno vuole entrare. Resta solo la corrente di Davigo, Pier Camillo Davigo. È stallo totale. E poi c'è un'intervista che poi è trovate a pagina 5 di Giorgio Gandola a Matteo Salvini. Sul vostro scoop, perché appunto questo delle chat è uno scoop della Verità, è sceso il silenzio degli indecenti, ma il muro rosso cadrà. Vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire perché da questa domenica sono di nuovo aperte le chiese, possiamo dire così, le chiese in realtà non hanno mai chiuso, però si possono celebrare le messe e altri riti di altre confessioni, e quindi Avvenire è vera domenica, tornano le messe festive con i fedeli, parrocchia alla prova della sicurezza, perché naturalmente anche all'interno delle chiese bisogna osservare quei protocolli che sono stati messi a punto per garantire la sicurezza di tutti, dei fedeli, degli officianti e in generale poi delle persone che verranno in contatto con chi è stato all'interno della chiesa. E poi ricorda l'Avvenire, la Lombardia resta la grande malata con 2/3 di tutti i contagi italiani. Il Fatto Quotidiano ha uno dei suoi fotomontaggi, in questo caso è l'assessore al welfare lombardo, che come ricordo ancora una volta welfare, ma in realtà ha la competenza anche sulla sanità. E naturalmente parliamo di Gallera, Giulio Gallera. La gallera degli errori è il titolo del Fatto Quotidiano. Il fotomontaggio vede Giulio Gallera con una mascherina. Sopra la mascherina, oltre alla valvola per il filtro, c'è anche un naso rosso da clown. Il riferimento è a una diretta che fa Gallera quasi tutti i giorni su questo sito Lombardia News. E ieri ha detto, per spiegare il tasso di contagio sceso a circa 0,5%, che ha detto testuale: con lo 0,5 devo trovare due infetti insieme. È un errore di definizione di questo indice statistico. Molti la chiamano GAF, io credo che le GAF siano un'altra cosa. Il Fatto Quotidiano naturalmente esamina questa cosa con la solita durezza, anche dimostrata nelle settimane, nei mesi scorsi, verso Gallera e in generale la gestione lombarda dell'emergenza. La Gallera degli errori esulta perché a Bergamo è positivo solo il 58%, non sa cos'è l'indice di contagio. Tutte le prime 5 pagine del Fatto Quotidiano sono dedicate da una parte alla Lombardia, ma anche al Veneto, perché è esploso l'ennesima polemica tra un virologo che tra l'altro gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, perché è stato spesso ospite per esempio di Effetto Giorno. Parliamo di Andrea Crisanti, che è consulente del governatore del Veneto Luca Zaia ed è anche professore di microbiologia a Padova, che dice: fase 2 senza criterio, la colpa non è certo dei ragazzi in strada. Ma la polemica in realtà riguarda il tema dei tamponi, che sono stati fatti in Veneto in grande numero prima di molte altre regioni e che secondo molti sono alla base del successo del Veneto. Adesso tutti cercano di intestarsi questo successo e quindi anche altri giornali danno conto di questa nuova polemica tra Crisanti e lo stesso governatore del Veneto Zaia. Sempre sul Fatto Quotidiano, l'articolo sul commento sulle quelle che alcuni definiscono gaffe, ma che sono di fatto semplicemente degli errori, di Giulio Gallera, di Selvaggio Lucarelli, lo trovate poi, inizia sulla copertina del Fatto, lo trovate a pagina 5. Il Manifesto, istruzione per l'uso, il riferimento naturalmente alla questione scuola, perché ieri ci sono state, e il Manifesto è l'unico che dà questa enfasi alla notizia sulla sua prima pagina, in 20 città italiane ci sono state manifestazioni di famiglie, studenti e insegnanti. Il tema è priorità alla scuola, troppo indietro la preparazione del nuovo anno. Abbiamo visto su Repubblica che comunque si sta lavorando a come iniziare il nuovo anno scolastico. Appello alla ministra per un rientro in classe a settembre in sicurezza. E poi naturalmente c'è la questione dei concorsi ci sono all'interno del governo: chi li vuole fare per titoli, chi li vuole fare invece con un vero e proprio concorso, un test che però è un test multiple choice. Oggi è in programma un vertice a Palazzo Chigi, cioè del governo, proprio su questa questione. E noi ci lasciamo un attimo per una pausa e sentiremo gli aggiornamenti sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Non so a chi dare la colpa, non posso dare la colpa a nessuno, né all'ora legale né all'aver fatto tardi ieri sera, perché non è così. Però un altro ascoltatore attentissimo mi fa notare che ho detto Meloni di Forza Italia, invece naturalmente Giorgia Meloni è la presidente di Fratelli d'Italia. Andiamo adesso sulle pagine interne dei quotidiani, torniamo sul Sole 24 Ore, vi segnalo la pagina 6 che è tutta dedicata alla inflazione o magari deflazione. Allora, da una parte ci sono gli aumenti, sapete anche le notizie che sono arrivate, documentate da fotografie di scontrini di alcuni esercizi commerciali che applicano, e lo scrivono anche nero su bianco, una sorta di tassa Covid di alcuni euro. Sicuramente ci sono stati dei rincari, però ci sono anche dei settori dove invece i prezzi sono in calo, anche perché i servizi per la normale dinamica domanda-offerta c'è meno domanda e quindi i prezzi calano. Tipicamente parliamo dei trasporti. E quindi questa pagina, l'articolo principale di Davide Colombo, paniere dei beni sui quali viene calcolata l'inflazione, scosso da spinte opposte, per ora l'inflazione resta ai minimi. E poi un approfondimento di Michela Cappellini sui beni alimentari, carrello della spesa, frutta fresca e pane, i rincari più pesanti. E per quanto riguarda i trasporti, Marco Morino, spesa giù per i trasporti, l'aumento delle tariffe. Vi dicevo l'approfondimento di Roberto Darin, pagina 9, sul Brasile: schiacciato dal Covid, il Brasile riorganizza le filiere produttive. Poi la consueta pagina dedicata a sport e business, pagina 14 del Sole 24 Ore, questa settimana si concentra sul ciclismo, tour e giro per salvare i conti del ciclismo. Il calendario è stato stravolto a causa della pandemia, ma l'Unione Unione Ciclistica Internazionale punta sulle grandi corse a tappe che offrono oltre il 75% della visibilità agli sponsor per limitare i danni economici. La sezione lifestyle del Sole 24 Ore, la copertina questa settimana di Giovanna Mancini dedicata al design, sui materiali l'innovazione unisce igiene e bellezza, perché con la capacità di anche l'inventiva, ma anche la capacità di investire in ricerca e sviluppo tipica delle aziende italiane, ci si sta già adattando nel mobile arredo, ma anche nel tessile moda, a trovare appunto materiali che garantiscano maggiore sicurezza dal punto di vista dell'igiene. La seconda pagina di Lifestyle è molto interessante, di Giambattista Marchetto, si intitola "Eccoci già all'estero con i nostri artisti". Barcellona, Londra, Praga, Porto e Strasburgo, cinque artisti espatriate, svelano il fascino dei luoghi più amati e raccontano dov'è possibile ritrovare la stessa magia in Italia. Ed eccoci qua al Corriere della Sera, con da una parte quasi nemici, c'eravamo tanto amati, in Veneto ora è gelo tra Zaia e il re dei virologi. In realtà, secondo un ascoltatore, è più una polemica comunque si chiama Russo, ed è una responsabile in realtà della sanità veneta, che dice che l'ordine di fare tamponi è venuto dalla regione. In realtà si chiama Francesca Russo, direttore dal Dipartimento di Prevenzione della Regione, sconosciuta ai più, ma dice la vera madre, secondo il governatore Zaia, del modello veneto. E da qui un po' questa polemica che dicevamo con Andrea Crisanti. E invece, quindi, quasi nemici Zaia e Crisanti, quasi amici il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che sapete non erano amici, ma adesso c'eravamo tanto odiati, miracolo del virus, De Luca parla a De Magistris. L'anticipazione del libro di Papa Francesco la trovate a pagina 19 del Corriere della Sera. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista al segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che l'intervista di Roberto Mania è dedicata il titolo è questo: ora serve una cassa integrazione uguale per tutti, perché sapete che appunto la cassa integrazione, per come è strutturata oggi, non è per tutti i settori. Ma visto che non abbiamo ancora tanto tempo, passiamo ai supplementi domenicali e cominciamo come sempre da quello del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Maschera, e la citazione è questa: imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. E questa è una, sono parole di Luigi Pirandello, e scrive Gianfranco Ravasi: se solo si pronuncia la formula uno, nessuno, centomila, tutti rimandano spontaneamente al titolo dell'ultimo romanzo di Pirandello, da lui definito il bilancio ideologico della sua maturità di uomo e di scrittore. È un libro del 1926. La frase che abbiamo desunto da quell'opera ne illustra non solo il titolo, ma anche il succo tematico. E la verità è evidente a tutti, al di là del noto pessimismo di fondo dell'autore. Noi stessi per primi dobbiamo riconoscere di non aver di rado indossato una maschera capace di nascondere i tratti sghembi e deformi del nostro volto interiore. Dai Vangeli sappiamo che Cristo ha compreso e perdonato tutti i peccati. Non ha sopportato invece l'ipocrisia, che è proprio l'ammantarsi di veli nobili e dorati per celare le proprie vergogne e avere successo. Chi non ricorda l'immagine dei sepolcri imbiancati che dall'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume? Citazione dal Vangelo di Matteo. E proprio perché questo è un vizio diffuso, non dobbiamo lasciarci irretire dalle apparenze, soprattutto in un tempo come il nostro, in cui spesso la finzione è un esercizio costante e sotto il vestito non c'è niente. Ma la copertina vera e propria è un'anticipazione di Massimo Bucciantini, che presenta in questo articolo che compare sulla copertina del Domenicale i contenuti di questo suo libro in uscita martedì 26 maggio per Einaudi, Addio Lugana Bella, storia di ribelli, anarchici e lombrosiani. L'anarchia a suon di musica, storia e retroscena della famosa Addio Lugano Bella, composta da un autore poco noto, il poeta e agitatore Pietro Gori. E poi, a proposito di uscite, anche questa il 26 di maggio, una nuova edizione di uno dei libri più famosi di Cesare Pavese, I dialoghi con Leucò. In questo caso l'anticipazione è il testo di Nicola Gardini, che parte del testo che introduce il volume Seconda più felice giovinezza. Nei dialoghi con Leucò lo scrittore riattivò una delle forme più alte della civiltà linguistica, il dialogo appunto, e nel ricordo trovò una poetica e una teoria della gioia. Molto interessante, perché è veramente un tema, secondo me, per chi ha seguito un po' le scaramucce tra Anthony Fauci, virologo e membro della task force della Casa Bianca per combattere l'emergenza, per combattere la pandemia, e quindi appunto i battibecchi tra Anthony Fauci e Donald Trump, ma anche abbiamo appena visto tra le diverse visioni di scienziati, in questo caso virologi e esponenti politici. E Vincenzo Barone ci racconta Scienziati in tempi di crisi, se Trump chiama Fauci, il difficile rapporto tra consulenti e governanti quando i primi vengono coinvolti nella vita pubblica e mettono in campo saperi, ma anche metodo ed etica. E abbiamo veramente poco tempo, allora vi segnalo anche un'altra recensione, in questo caso l'editore Ponte alle Grazie, l'autore Franco Michieli. Il libro si intitola L'abbraccio selvatico delle Alpi, è una bella recensione di Maria Luisa Colledani, sempre sulla Domenica del Sole 24 Ore, dove Franco Michieli ricostruisce a distanza di 40 anni il suo viaggio di maturità da una parte all'altra delle Alpi, un'epica attraversata in immersione totale nella natura. E visto che insomma ci stiamo avvicinando alle estate, tanti di noi probabilmente sceglieranno vacanze in Italia, vacanze in montagna, che in generale poi le passeggiate garantiscono quel famoso distanziamento che tutti raccomandano, ma il libro è appunto il racconto di questa epica traversata delle Alpi. La lettura del Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Bross. E vi segnalo una bella conversazione, una bella intervista di Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, che ha intervistato Laurent Binet. Il suo nuovo libro si intitola Civilizzazioni, ribalta l'epopea dei conquistadores, che cosa sarebbe successo se, dice l'autore, l'ho scritto prima dell'emergenza, ma la pandemia insegna che tutto può essere diverso, a cominciare dal capitalismo. Siccome sentiamo tanto parlare di appunto come la pandemia ci ha cambiato, questi sono spunti di riflessione. Europa nonostante tutto è il libro uscito l'anno scorso alla vigilia delle elezioni, con tanti contributi, e la lettura in questa conversazione riportata a partire da pagina 19, è intitolata L'emergenza del virus trampolino d'Europa, raccoglie appunto le parole di Antonio Calabrò, Maurizio Ferrera, Pier Gaetano Marchetti, Alberto Martinelli e Antonio Padoa-Schioppa. Ancora tanti spunti di riflessione ora che si parla tanto di come potrebbe cambiare l'Unione Europea. Era veramente l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.